Italia in controluce. La cronaca è il cuore del giornalismo, amava dire spesso Enzo Biagi, che aveva raccontato per molti anni l'Italia delle trasformazioni dal dopoguerra al modernismo. Narrare la cronaca è dunque il compito di Italia in controluce. Buongiorno da Daniele Biacchessi. Cosa chiedono al governo e alle istituzioni i ricercatori che protestano da mesi nelle università? Sono giuste le loro rimostranze? Il racconto di Teresa Trillò. Quello che non ho è un orologio avanti. L'università protesta. La riforma disegnata dal ministro dell'istruzione, Maria Stella Gelmini, non piace a ricercatori, studenti, professori. A Roma, Milano, Palermo, Bari e molti altri atenei, i ricercatori hanno deciso di astenersi dall'insegnamento facoltativo e l'anno accademico inizierà in ritardo. L'esame della riforma è stato rinviato. L'assunzione dei precari, infatti, risultava senza copertura finanziaria. Se ne riparlerà quindi a fine anno, dopo l'approvazione della legge di bilancio, ma la protesta non si placherà. Dice il coordinatore della rete 29 aprile, Piero Graglia. La protesta continua fino a che non verrà riscritto questo disegno di legge di riforma dell'università. L'università è un settore strategico, noi chiediamo di partecipare alla ricostruzione di questa università se si ha l'intenzione di ricostruirla. Quindi chiediamo che la riforma venga rifatta, venga riscritta, coinvolgendo tutte le componenti dell'università. Questa riforma è stata fatta soltanto con i rettori, con la CRUI, senza coinvolgere ordinari, associati e ricercatori. Noi chiediamo evidentemente che si cambi registro, non siamo più disposti a stare da parte. Tanti i ricercatori che hanno scelto di non garantire le lezioni. Ancora Piero Graglia. Dunque, i ricercatori italiani in tutto sono circa 24.000 e i ricercatori coinvolti, i numeri cambiano continuamente, comunque siamo su una stima di circa 9-10.000 in 45 università italiane. 45 su 66 università pubbliche italiane sono coinvolte. I punti più contestati della riforma sono le nuove norme sui tagli dei fondi all'università, consigli di amministrazione nominati dai rettori e composti anche da persone esterne. C'è poi il tema dei ricercatori. La riforma prevede assunzioni con contratti a tempo determinato per complessivi 6 anni, al termine dei quali si diventa professore associato o si lascia l'università. Per fare la riforma universitaria, secondo il responsabile del Coordinamento Nazionale Ricercatori Universitari, Marco Merafina, occorrono tante risorse. Servono almeno 5 miliardi perché dobbiamo rimettere a posto i bilanci delle università, dobbiamo risolvere il problema del riconoscimento del ruolo di professore e ricercatori universitari, abbiamo bisogno di risolvere il problema del precariato degli studenti e dare una certezza alla tenure track che è prevista nel disegno di legge. La battaglia continua perché il fatto che sia stato rimandato il disegno di legge non significa che sia tutto finito, i problemi restano sempre lì sul tappeto e debbono essere risolti affinché l'università sia migliore di quella che è attualmente. Quello che non ho. E c'è anche chi mostra scetticismo sull'ingresso dei privati nelle università, come il prorettore della Sapienza per lo sviluppo di attività formative e ricerca, Bartolomeo Azzaro. Questo potrebbe essere un modo per arrivare a nuovi fondi, ma non deve essere a scapito delle rappresentanze delle università e quindi anche del dibattito interno sulla ricerca e sulla formazione, che è fondamentale per le università. E poi sperimentalmente si è visto, nel caso della Università Ca' Foscari di Venezia, che i privati dentro il Consiglio di Amministrazione non hanno garantito quell'efficienza sia finanziaria sia organizzativa che si sperava. La protesta si concentra soprattutto nelle facoltà scientifiche, motori della ricerca, ma non lascia indifferenti neppure le facoltà umanistiche, dice Dario Corallo, studente di filosofia alla Sapienza. Siamo qua per manifestare perché venga valutata la figura del ricercatore e venga permessa agli studenti di diventare ricercatori qualora lo vogliano. Questa dovrebbe essere una riforma, in realtà è semplicemente una riduzione, tutto questo per venire incontro ai problemi economici che Tremonti non riesce a risolvere. La mia facoltà è filosofia e non è partita nessuna lezione, non perché i ricercatori si siano rifiutati di fare lezione, ma per volere della preside di facoltà, per volere dei docenti e di solidarietà nei confronti dei ricercatori, che una facoltà come filosofia la ricerca è fondamentale, non abbiamo i soldi per comprare i libri per la biblioteca, non abbiamo le aule, non abbiamo nulla. E vogliono tagliare ancora di più. L'anno prossimo si parla di accorpare di nuovo la facoltà di filosofia alla facoltà di lettere. Ed è completamente assurdo, perché sono due cose completamente diverse. La partita sulla riforma universitaria resta dunque ancora aperta e si dovrà attendere fine anno per capire come finirà. C'è da sciogliere soprattutto il nodo finanziario sull'assunzione di 9.000 ricercatori a tempo indeterminato. Quello che non ho è di farla franca. Quello che non ho è quel che non mi manca. Quello